Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:39 minuti primi, rieccoci ancora in studio con Maurizio e Gilles, questa volta per una diretta, per un live per in una studio. Band che è arrivata dall'Emilia, mi pare, è così? Esatto. Da Parma, è arrivata, abbiamo avuto dei momenti autostradali superati e siamo arrivati. Meno male che ci siamo. Diceva un buon Bennato, meno male che adesso ce n'è Roma, quindi siamo arrivati e questo è importante. Buonasera gli FFD in mono, è giusto? Buonasera Maurizio, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Blu Veneto. Blu Radio Veneto. Ho già detto la mia se si può dire cagata, ma vabbè, non importa, è lo stesso, ci siamo capiti. Okay. Hai un ospite che ti sei portato. Stasera un mi sono portato, visto che spesso e volentieri tra di noi band ci piace collaborare, fare progetti insieme, suonare insieme, così mi sono portato Mr. Garrincia, a.k.a. Ariuna della Scarnemurta, con il quale abbiamo condiviso insomma diverse volte il palco in questi anni, sia con gli FFD che con anche altri progetti, e insomma nel nuovo disco che stiamo qui a presentare stasera, insomma, oltre che a fare questa chiacchierata molto divertente tra di noi, speriamo almeno, certamente. Siamo qui a presentare il nuovo disco Antifarise degli FFD. Nel disco c'è un brano che abbiamo fatto con la Scarnemurta, quindi con la band di Mr. Garrincia, e ho detto dai, intanto che veniamo su facciamo una cosa insieme, promuoviamo anche il CD, mi pare giusto, perché è un ottimo disco, certo, e le cose adesso c'è giustamente, ma ci dovrebbe essere sempre questa condivisione fra band, è un po' un problema, perché non in tutti Italia hanno non succede spirito, no, molte volte c'è competizione, che io la definisco guerra tra poveri, no? Perché alla fine non è che c'è una grande torta sulla quale spartirsi, no? Quindi alla fine si suona sempre per divertirsi, per star bene, e alle volte ci si accontenta anche, insomma, quindi tra di noi c'è un bel rapporto, ovvio per il momento. Adesso non so se mi lascia qua stasera fino a stasera sì perché guida lui, se mi trovate in giro per Padova vuol dire che è finito il nostro rapporto. Vabbè. Bene, quindi questo nuovo disco degli FD celebra i 20 anni, caro Mano. Esatto, è un bel traguardo. Beh, direi di sì, insomma, abbiamo iniziato, ci tengo a sottolineare che abbiamo iniziato molto giovani, quindi nel senso non siamo ancora non sei mica vecchio rispetto a me, molto più, io sono molto più vecchio di te, molto giovane abbiamo iniziato molto giovani, io avevo 17 anni ed ero più vecchio della band, che anno abbiamo nel 92, quindi siamo nel 21esimo anno, dicevo prima, e io ero più vecchio della band, avevo 17 anni, il chitarrista ne aveva 13 quando abbiamo iniziato a fare i primi concerti, i primi tour, e diciamo che era una cosa molto particolare all'epoca, nel 92 venivamo con l'eredità della musica punk degli anni 80, quindi non era ben visto nei primi anni 90 la musica punk. Mi ricordo che si andava nei locali, si portava la cassetta e spesso e volentieri ti chiede anche genere fai, quando ancora c'erano le cassette. Ma tu hai... per i più giovani, quegli oggetti di plastica col nastro dentro. Nella tua biografia hai detto una cosa molto bella, o meno in un'intervista hai parlato di un 7 pollici che davi in giro, così. Esatto. Come il discorso del 7 pollici che regalavi, perché hai visto una band che aveva Clash sulla maglietta, una cosa di questo, l'hai rincorsa per dire ti do questo, certo, qua, se prova a sentire questo. Quando eravamo agli inizi avevamo fatto questo 7 pollici che era il 45 giri una con le dimensioni, esatto, anche se quello girava a 33 per farci stare milioni di euro, esatto, per i collezionisti, insomma, era un po' un azzardo che avevamo fatto all'inizio, perché insomma le band spesso e volentieri suonavano per fare fighi, no? Quindi loro ambivano magari al locale più bello della città, però non pensavano di andare a suonare in altra città, così aspettavano il talent scout, no? Che li scoprisse, che li portasse al successo. Noi al nostro tempo, visto che il genere che ci piaceva a noi era comunque fuori moda, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo trovato uno spazio a Parma dove poter promuovere e far ascoltare il nostro genere musicale, con il quale abbiamo iniziato a scambiarci con altre band come Los Fastidios, come Pancras, come The Rozer qui della zona. The Rozer sono famosi, abbiamo iniziato insieme un po', no? Scambiandoci le date, e abbiamo pensato di autoprodurci un primo 45 giri, che poi ripeto un primo 7 pollici, dobbiamo sottolineare 7 pollici, esatto, una rarità, il primo singolo. e ce lo siamo autoprodotti, però alla fine non è che era come oggi che magari abbiamo il distributore che te lo porta nei negozi, era un genere che era un po' molto di nicchia, quindi facevamo noi con la nostra sacchettina, giravamo con il nostro tascapane e a volte mi è capitato di vedere personaggi in giro con la maglietta dei Clash o dei Sex Pistols e via ricorli, via ricorli, perché era novità, ma li vendevo però alla chiaro. Fine ma, poi... dischi punk italiani ne usceva uno all'anno, esatto. Due al massimo, non che, non tutti che adesso sia cambiata molto l'antico, però è il discorso di vendere la valigetta, ce però il problema è il problema che però adesso tutti i ragazzini fanno tre prove, vanno in studio, fanno un CD e pretendono di venderlo, no? All'epoca invece il fatto di avere il disco in mano era una cosa che in pochissimi facevano, perché era un po' una cosa un po' visionaria, certo. No? Quasi autoprodursi un disco, perché diciamo, ma poi a chi lo vende? Invece alla fine dopo 2 o 3 mesi gli vendevamo in Giappone, abbiamo trovato qualche distributore sempre nel settore, gli vendevamo in Giappone, come per dirti in tutta Europa, caro Mono, negli Stati Uniti, nel giro di pochissimi mesi alla fine, però abbiamo iniziato così, ne ho dati via in cambio di birre, perché la sera non c'avevo soldi in tasca, eravamo qualche consumazione, esatto, io dicevo dai ti do un disco, dai, ma non c'ho soldi, offrimi una birra. Siamo a posto. È sangue, sudore, lacrime, allora. Assolutamente. Sì. Una volta si facevano i dischi così, adesso si fanno i dischi molto molto più facilità. Sì. O no? Cosa sì. Dici? Allora, diciamo che nella media la massa è molto più disposta, visto che vede come mezzo anche l'internet, esatto, in giro è molto facilitata. È molto facilitata rispetto ai nostri tempi. A me piaceva di più una volta perché si scremavano veramente le persone intenzionate, anche comprare un disco punk era difficile, io spesso e volentieri me li compravo o via posta, c'erano i mail order dove io mi facevo mandare il catalogo dall'Inghilterra e sceglievo nel catalogo, mandavo i soldi rischiando anche di perderli nella busta. Poi tra l'altro se non mettevi francobollo non ti rispondevano, c'erano queste cose qua molto particolari che adesso con internet sembra una follia, tu mandavi i soldi prima, aspettavi un mese o due che poi ti arrivavano e non ti arrivavano, ti arrivavano rotti. Può capitare che però quando ti arrivava ti piaceva, te l'ascoltavi, te lo facevi piacere, adesso schiacci un tasto ti esce tutto e ci sono molti ragazzi che non c'è più fatica. Quindi anche noi farsi il primo disco, mi ricordo dovevamo andare in vacanza, abbiamo tutti rinunciato alle vacanze quell'anno lì per poter fare il disco, no? Adesso benissimo. Mi sento dei cenni dalla regia. Sì, mannaggia, cosa ho fatto? Aiuto, no, dobbiamo mettere sul primo pezzo. Okay. Un primo pezzo importante. Avete scelto una cover del quartetto. Il quartetto c'è. Come mai, sì, Mono? Poi, insomma, come FFD siamo assolutamente, soprattutto io che sono quello che porta avanti la band da 21 anni a questa parte, sono un grande appassionato di scooter, di Lambretta, Vespa e Lambretta, perché per me quelli che i giovani d'oggi definiscono scooter sono motorini, per me quelli, no, sono plasticoni, io li definisco. Per me lo scooter è la Vespa e la Lambretta, quindi da buoni appassionati di Vespa e Lambretta abbiamo anche il nostro club, insomma sono anche un assiduo frequentatore di raduni. E è un po' anche uno stile di vita, anche quello lì che va via parallelo alla musica, no? Noi ci definiamo scooteristi, quindi anche insomma tutta un'altra cosa che vabbè non intavoliamo questo discorso. Comunque insomma la nostra passione per lo scooter, per la Vespa, per la Lambretta, io soprattutto sono più per la Lambretta, e quindi insomma girava su internet questo carosello del quartetto Cetra che ai tempi l'avevano utilizzato per fare la pubblicità della Lambretta, delle Innocenti, se non sbaglio era la terza serie o la TV comunque di alcuni modelli di Lambretta, e il quartetto Cetra ai tempi del carosello, per chi non sapesse cos'è il carosello, lo sanno, ma adesso è ritornato in auge, adesso è ricominciato il nuovo carosello, sì, che io non guardo, io non mai l'ho visto, però il nuovo carosello quei 10 minuti dalle 21 alle 21:10, una volta invece era mezz'ora, erano proprio degli spezzoni cinematografici di grande valore. Dopo il carosello i bimbi tutti a letto, esattamente, diceva, questo era quello dicevano. Allora avete scelto sta cover del quartetto Cetra, che era la pubblicità della Lambretta, diciamo. Esattamente. Ecco, quindi noi l'abbiamo riproposta insieme alla Scarnemurta, è qui presente. La Scarnemurta è una, se si può dire tra virgolette, big band con i fiati, con percussioni e quant'altro. Un po' diversa dal vostro genere, esatto, chiaramente. Però siamo uniti, c'è una... insieme, c'è anche un'altra ospite, Julie Witch, insomma, che fa la voce femminile. Abbiamo fatto una piccola cooperativa e abbiamo fatto questo pezzo. Fatta però in presa diretta, molto così, 1, 2, 3, 4 e vai. Come si usava una volta. Esatto. La sentiamo adesso, ok? Sentiamola. Blue Radio, Veneto. il nuovo ritmo che fa strabiliare, per tutto il fatto di genialità, di dinamismo, di eleganza, di potenza, tutto quello che può darti la felicità. Prendendo ruote le mettiamo qua, un bel motore che veloce va, poi ci mettiamo un bel fanale ed un clacson dalla voce originale che ti fa. In ogni strada suonerà, scooter in una nuova linea porterà, freno a disco, novità. Mischiamo bene tutto quanto ed ecco qua, il motoscooter di gran qualità, con sicurezza e con velocità, in capo al mondo in un festoso giro tondo, la mente in allegria mi porterà. Lambre Twist, mattina e sera balli Lambre Twist, in tutto il mondo balli Lambre Twist, con le maracas tra le piante e i banane, nelle notti indiane balli Lambre Twist. Lambre Twist, Lambre Twist, Lambre Twist, tutti in pista Lambre Twist, chitarrista, batterista, trombonista e tre si contrabbassista, tutti insieme fanno il Lambre Twist. In riva al mare con il Lambre Twist, a lavorare con il Lambre Twist, con la tua bella a passeggiare puoi andare, questo è l'anno in cui trionfa il Lambre Twist. Lambre Twist, mattina e sera balli Lambre Twist, in tutto il mondo balli Lambre Twist, con le maracas tra le piante di banane, nelle notti indiane balli Lambre Twist. Lambre Twist, Lambre Twist, Lambre Twist, tutti in pista Lambre Twist, chitarrista, batterista, trombonista, mettersi contro bassista, tutti insieme fanno il Lambre Twist. In riva al mare con il Lambre Twist, a lavorare con il Lambre Twist, con la tua bella a passeggiare puoi andare, questo è l'anno in cui trio per Lambre Twist. Lambre, Lambre Twist. SMS 346 2320 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:51 minuti primi, Blu Radio Veneto con voi, Gilles Maurizio con gli FFD e la Carne Muerta. E vi ricordo anche che se volete sintonizzarvi con noi tramite internet www.bluradioveneto.it per ascoltarci in streaming. Se avete anche voglia di interagire con gli FFD presenti qui con noi, collegatevi alla pagina Facebook Blu Radio Veneto Rockwave e lì scrivete i vostri post e noi li leggeremo in diretta. Caro Mono, abbiamo ripreso il Quartetto Cetra in versione punk. Ramones Docet, 2 minuti 40, 2 minuti 50, quello è la versione punk. Il punk si consuma in un attimo, perché è così, è sempre stato così. Eh beh sì, insomma, adesso in questo caso abbiamo cercato di, sì, di sposare un po' di più anche, grazie a lui, a Gadiccia qui presente. Esatto, un po' lo stile anche della Carne Murta, Dirty Swing, quindi è stato un incontro tra il punk, però la filosofia è sempre la stessa, anche per la Carne Murta è sempre un insomma lo spirito punk è molto presente. Il punk sono la esattamente base, la base, diciamo, di tutto. E mi diceva Mono che l'arrangiamento ci hai messo una mano te in questo pezzo. Sì, diciamo che soprattutto ha suonato quel basso forsennato col plettro che si sente. Ma poi lui adesso non però comunque lui suona molto bene chitarra, mandolino, stasera la chitarra fisarmonica, tastiere, un po' di tutto, sassofono. Sì, anche se nella Carne Murta, che sarebbe Carne Murta, ok? Che io prima ho detto muerta, che magari è una cosa diversa. Vabbè, ma l'hanno storpiato in tutti i modi possibili il nome, quindi questo non è grave per niente. Allora, Carne Murta comunque. In quel caso suono la chitarra, diciamo. Poi nella vita, siccome io in realtà sono un sassofonista all'origine. Ah, però interessante. Suona un po' tutto. Lui gli dai uno strumento in mano, lo suona immediatamente. Ci smanetta un attimino, qualche momento, così, qua, capisce via. Come funziona e poi via. Via, è già capace. È un talento. Esatto, poi non sono un virtuoso in nessuno. Però suono un po' di tutto, chiaramente. Esatto. Bene, adesso Mono giustamente mi ha detto: facciamo sentire anche un pezzo di Gardincia. Adesso il pezzo di Gardincia dal suo album. Come si intitola il tuo album? Allora, l'album si intitola Dirty Swing, è uscito nel 2012 ormai. Dirty Swing già dice qualcosa, esatto, come titolo. È un po' il manifesto del genere che vogliamo proporre, cioè prendiamo lo swing, quindi abbiamo i fiati, percussioni, una base di swing e rock and roll, e lo facciamo alla nostra maniera, certo, insomma, certo. Un po' più sporco. Il pezzo che hai scelto? In questo caso penso che sia la traccia numero 3. Che mi pare di sì. No, la 5, Basso Ventre. La 5, ok, Basso Ventre, esatto. È un pezzo invece un po' più latineggiante, e parla di una storia d'amore un po' particolare, insomma. Ok, la sentiamo allora adesso. Stringimi, riempimi di affetto intanto, che questo mondo di effetti collaterali mi risucchia tutto. E il Basso Ventre ne risente. Stritolami, che il duro inverno si avvicina. Svegliami dal letargo, quando dei tuoi baci finirà l'embargo. Placcami, poi di baci infiaccami. Il mattino secco in gola, un raggio di là dall'acqua splende. E il Basso Ventre ne risente. Massacrami, che il giorno dopo si avvicina. Divertiti con i miei punti neri, come hai fatto fino a ieri. L'altro ieri, un giorno l'altro ancora. Libera di scorazzare quando la curiosità ti uccide. Già allora dai, sto finendo. Libera di scorazzare quando la pirateria sorride a te. Allora dai, sto finendo. Una vita, una galera. Poi di baci fiaccami, gocce di sangue di Giuda lentamente ti cadono sul petto. E il Basso Ventre ne risente. Mi hai rapito, mi hai come quadro di un veliero, come un vestito quando non è festa e all'alba sei già a testa. Meravigliosamente libera di scorazzare quando la curiosità ti uccide. Già allora d'aria sta finendo. Libera quando la pirateria sorride a te. Allora d'aria sta finendo. E la vita è una galera. Meravigliosamente libera di scorazzare quando la curiosità ti uccide. Già allora d'aria sta finendo. Libera di scorazzare quando la pirateria sorride a te. Allora d'aria sta finendo. Libera di scorazzare quando la curiosità ti uccide. Già allora d'aria sta finendo. Libera di scorazzare quando sorride a te, ora d'aria sta finendo. È una vita, una galera. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Leggendo un po' sulla presentazione, io vedo scritto street punk, quindi mi aspetto magari delle sonorità un po' forti, invece trovo delle sonorità molto piacevoli, in maniera positiva. Insomma, un po' piacere. Hanno due chitarre acustiche stasera. Esatto, in questo momento, insomma, per motivi di ambiente. Tra l'altro, è la prima volta che facciamo una cosa del acustica, genere. Acustica? Sì, volta. Ce l'avevamo già chiesto altre volte, non ci eravamo mai lanciate stasera. Ma sì, dai. Proviamo. Siamo a Blu Radio Veneto, quindi, insomma, live acustico. Così, dai. Live acustico. Sì, proviamo. Non è proprio nelle nostre corde, perché giustamente il nostro genere è proprio più sì, tirato. Molto tirato. Esatto. Dobbiamo dire una cosa, caro Mono, anche lo dico a Garrincha. Beh, questo pezzo, intanto parliamo un momento del pezzo di Garrincha e della sua molto band, bella. È molto, molto sì. Reggeggiante. Questo è un pezzo un po' Messico e nuvole, un po' sì, Messico e nuvole. Un po' più latina. È esattamente. Esce un po' anche dal resto del disco, nel senso che il pezzo che non più, è sporco. Rispetto, esatto, è il pezzo un po' più pulito del disco, però noi spaziamo molto tra i generi, ecco, rispetto magari non ci possiamo definire né punk né rock and roll né latino, in realtà mescoliamo tutto. Mentre Mono è assolutamente punk, esatto, anche se esatto. È assolutamente punk, però Mono è l'unico esponente dell'origine della band, vero Mono? Esatto, gli altri sono tutti cambiati. Esatto, sì, tu sei rimasto fisso. Nei vent'anni c'è chi si è fidanzato, chi si è sposato, chi è andato via, chi ha avuto problemi di lavoro, certo, chi non mi sopportava più. Anche quello può capitare. Insomma, la democrazia è democrazia. Quando si va in giro a suonare sempre con le stesse persone, sempre lo stesso furgone, tutto in camera insieme per delle settimane, ci annusiamo gli odori a vicenda, tutte queste cose qua, dopo un po'. Perché anche questo qui fa parte del suonare dal vivo. Fa parte del suonare dal vivo. Famiglia, no? Quindi dopo un po' uno si può anche stancare. Ma vent'anni siete stati anche all'estero voi? Assolutamente, sì, no, abbiamo girato un po', insomma, in giro per l'Europa, non dico tutta perché se consideriamo tutta la Russia è veramente enorme, però abbiamo girato lì più la scarne morta. Siete stati in Russia, nell'est. Però insomma abbiamo girato diverse nazioni, è una cosa che mi fa veramente piacere andare all'estero e trovare la gente che sa le canzoni, cioè questo mi capita di andare in Germania, in Austria, di andare a suonare e conoscono più pezzi. Molti sono italiani, certo. Magari che sono andati a vivere là, che insomma si ricordavano 10-15 anni fa che venivano ai nostri concerti, però anche gente del posto che prova a intonare qualche ritornello, insomma, come fa l'italiano che non sa l'inglese, no? Quindi, ecco, esatto. Wah, così. Posso testimoniare che girando con la mia band ho trovato moltissime band di ragazzi giovanissimi che facevano le cover degli FFD e suonavano magari hanno lasciato un seme non da poco, esatto, musicalmente parlando. Ma perché sono facili? Allora, hai ragione. Io ho conosciuto molti musicisti anche di un certo livello che adesso suonano con personaggi anche da classifica e mi dicono: ma sai che io ho iniziato suonando le tue canzoni, ma perché sono tutte più o meno con gli stessi accordi, no? Ritornelli un po' incisivi, no? Molto semplici, quindi uno che prende in mano la chitarra ci suona sopra un po' qualche ora e già una canzoncina degli FFD la tira. Ma il punk è sempre la canzone del sole che gira, sì, diciamo. Okay. Ma che il discorso che il punk sia facile è una leggenda metropolitana, assolutamente no. È facile iniziare ad approcciarsi, però poi dopo se lo vuoi fare bene, seriamente bene, le cose con cambiano. Con gli accenti giusti, con i suoni giusti, con l'attitudine giusta, anzi... Ho conosciuto jazzisti o maestri di musica da conservatorio che mi hanno detto: io suonare come suoni tu, nello stesso modo, con la stessa intenzione che non ci riuscirei mai. Quindi insomma, ognuno deve fare la musica. Il bello dei Ramones o di band similari che hanno mandato anche in cantina tantissimi ragazzi che magari avevano paura di suonare, certo, vedendo invece gruppi così si sono messi i nostri, FFD possono essere i Ramones delle Emilia, esatto, perché no? Esatto. C'è niente di male. Adesso Mono, proviamo. Siamo un pezzo di molti anni fa. Esatto, questa era una canzone che avevo scritto nel 95, uscita poi nel 96 in un vinile. Poi l'avevamo ripescata nel 2002 per una riedizione un po' più patinata, un po' più, e dal quale era stato tratto il nostro primo videoclip, con il quale poi è iniziata anche la nostra carriera, perché io ho avuto anche un periodo di qualche anno dove ho lavorato, collaborato con dei canali di Sky, diciamo, televisivi, quindi ho fatto i miei programmi ed è tutto partito dal video di questa canzone. E dobbiamo sottolineare una cosa, che Mono è un DJ praticamente. Esatto, sì. Dobbiamo dirlo, è un nostro collega, Mono, da decina d'anni, è un DJ. Tu lavori, ti diverti su una radio. Esatto, posso dirlo, su K-Rock, ma come no, certo. Sì, una radio che si sente in Emilia, si sente, è una delle prime radio rock italiane, tra l'altro. Bene. E come anzianità, non come numero di ascoltatori. Non importa, anzianità dalla di servizio. Nella nostra zona è molto seguita, e ho anche un discreto numero di ascoltatori. Poi prima abitavo a Milano, ero a Radio Lupo Solitario. Ma che era famosa all'epoca. E poi, esatto, poi ho fatto un po' di anni a Rock TV su Sky, insomma. Quindi hai un certo pedigree, possiamo un dire po' di così. Pedigree, sì, però sono famoso anche per le mie gaffe, per la quello mia fa spontaneità. Parte. Quello fa parte, fa parte. E questo, questo non è una gaffa quella che suoni adesso, però. No, non è una gaffa, ma può darsi che rientrerà entrerà nel cassetto delle cagate fatte, scusami, nella mia vita, delle cose. Si poteva dire meglio che non la delle scegli più delle sciocchezze, delle sciocchezze. Però noi ci lanciamo, anzi ringrazio Garrincia della Carne Murta che è qui con me a Cimentas, le abbiamo provate un secondo prima di partire. E poi vi chiederò un po' anche il significato sia del vostro gruppo anche dei titoli dati all'CD. Assolutamente, questa è una vecchia canzone che si intitola La ragazza dei quartieri alti. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Una ragazza dai quartieri alti, un po' ironizzata, leggermente ironizzata, nel senso bello, positivo. Come... Beh, io mi ero un po' ispirato, diciamo, quando avevo scritto questa canzone, un po' una storia veramente. non un vero amore, però qualche cosina, qualche ispirazione sulla realtà c'è stata. Mi ero un po' ispirato al film, diciamo, anni 80, college, no? Dove c'è quello che ha la vicina di casa che si vede già che è carina, però te la presenta con i brufoli, no? Le trecce, così, e a lui piace la cheerleader, no? Certo. Quindi, poi dopo alla fine questo continua a provarci con la cheerleader, quando la cheerleader si accorge, quindi ricambia le sue attenzioni, lui capisce che la migliore invece è la vicina di casa, che nel frattempo gli sono sparite le lentiggini, l'hanno conciata bene, si è messi i pantaloncini corti, e è diventata molto meglio della cheerleader, quindi insomma era un po' ispirata. C'è anche un bellissimo film di Celentano, Serafino, che più o esatto, meno, più o meno, è un po' la Serafino, esatto, più o meno possiamo definirlo, Mauro, questo punk melodico, questa sì, assolutamente, assolutamente. Ma sì, come sì. All'epoca come si faceva dal vivo un pezzo simile? One, two, three, è sempre uguale, one, two, no, three, sì, four, con via. Più forza, con più veemenza oppure no? Beh sì, no, sempre era, anzi la prima versione era molto più veloce, molto più arrabbiata, facevi parlare la gente, che più scarna anche nei suoni. La versione quella nel 2002 dove è un po' rifatta, volutamente rifatta, un po' più patinata, più arrangiata, più... Comunque invito tutti ad andare a vedere gli FFD dal vivo, perché ancora adesso è una macchina dal vivo, è abbastanza è una macchina di rumore nel senso positivo. Beh certo, no, insomma l'energia che trasmettiamo, ma il punk sempre... è energia, esatto, al di là del discorso sociale, politico e dei testi, musicalmente sono, e beh certo, per me catena. Un concerto che ci siano 30 persone o 3000, l'importante è che a fine concerto siano tutte sotto il palco, che ballano, che cantano e che si divertono, perché dai qualcosa, devi dare qualcosa. Io devo dare tutto, se non ho visto, cioè se non sono riuscito a far alzare tutti dalla sede, nel caso le pochissime volte che c'è gente seduta, perché solita ultimamente fortunatamente la gente viene tanta e sanno già le canzoni e cantano, ballano insieme a noi. Però quando è capitato di trovarsi in situazioni un po' più, diciamo, difficili, io, cioè, sfoderi, ci tengo lì, finché, anzi, do molto di più, devo dire, quando c'è meno gente, quando la situazione è più imbarazzante, voglio dare tutto, assolutamente, fino in fondo, e voglio che la gente che è in fondo al locale, che magari ti ignora, devo attirarli sotto il palco e devo fargli cantare qualcosa. Hai citato i locali. Che locali... avete difficoltà? Io penso di no. Avete difficoltà a trovare dei posti? Insomma, non vi pare. Ma insomma, in Italia adesso c'è in una Italia, grande c'è un, crisi. C'è una grande crisi. Una certa crisi. Devo dire che fortunatamente in quest'ultimo periodo il nuovo disco sta piacendo e ci stanno chiamando tanto. Ecco, non girano dei grandi soldi, però noi lo facciamo per passione soprattutto, certo, quindi certo. Non è quello l'importante. Ma i dischi si vendono nei concerti, chiaramente. Sì, qualcosa si vende. Anzi, devo dire, quel nuovo disco sta superando... Tutte le attese positive. Tutte le attese. L'hai scritto da qualche parte. Siamo al triplo di quello secondo che ci aspettavamo. Secondo le stime. E le date stanno arrivando tante, anzi adesso è il nuovo nostro problema, perché insomma, per chi non lo fa come prima professione diventa impegnativo andare a lavorare, suonare, certo. Diventa impegnativo. Quindi adesso ho il problema con la band che... A proposito, tu avevi detto che una band che gira continuamente, come fai? È una band fissa per portare sempre, insomma, c'è sempre in questo disco c'era una band fissa che mi sembrava di aver trovato quella giusta, perfetta, tutti amici, lo dicevamo anche prima, suonavamo bene, avevamo un bel motore e tutto, però con questa cosa dei troppi concerti qualcuno se ne sta andando perché non riesce a reggere il ritmo, purtroppo con il lavoro e i concerti si fa fatica, quindi spesso, anzi devo dire sempre, la scelta, purtroppo, anche se vorrebbero scegliere il gruppo, sempre scelgono tutti il lavoro, certo, perché è quello che danno a mangiare, chiaro, insomma, quindi è più che comprensibile. Devo dire che a noi in questo momento siamo più che contenti, però sono io scontento del fatto che in Italia c'è troppa crisi nei concerti. Lui appena di ritorno da Londra, quando si va a suonare all'estero capita che tu suoni, anche se non ti conoscono, ti ascoltano, stanno lì, non se ne vanno. Poi alla fine, se gli piace, vengono a dirti che gli piace, se non gli piace, non è che sono che regalano niente, però sono attenti, vengono a vedere il concerto perché alla gente piace ascoltare la musica dal vivo. Anche la musica originale, perché in quasi tutti i locali di Londra, ad esempio, sono vietate le cover. Bello, è una cosa giusta questa. E la qua. Gente è, una cosa sempre, è sempre pieno di gente sotto al palco che vuole sentire la tua musica, non qualcosa che ha già sentito. Invece in Italia c'è un po' la tendenza, il contrario, tutti vogliono sentire la musica degli altri. No, ma anche nel mondo della musica alternativa, magari ripeto, a noi ci va abbastanza bene perché la gente già ci conosce, quindi siamo sempre, se fanno il festival, verso la fine, no? Quindi siamo tra i gruppi che la gente già conosce, e quando suoniamo noi sono tutti sotto il palco che cantano. Ma se ci sono tre o quattro gruppi agli inizi, prima, nessuno li sta a guardare, stanno fuori a fumare, no? Sì. Mentre la stessa cosa in altre nazioni non succede assolutamente, anzi la gente viene, ma anch'io, anche noi siamo più o meno coetanei, da ragazzini noi sentivamo, c'è il gruppo tal dei tali che ha fatto, andiamolo a vedere, ma anche se non avevo il disco, che non sapevo le canzoni, lo andavo a vedere, poi se non mi piaceva me ne andavo, certo, per certo. Carità, perché non è che ti fai piacere tutto, però c'era più attenzione. Oggi non c'è attenzione. Una cosa che devo rimproverare però ai ragazzini, i più giovani, che è vero che nessuno li va a vedere, però loro stessi non vanno a vedere gli altri, perché, ecco, vedi. Perché noi tra di noi, io andavo a vedere lui veniva, diciamo, tra di noi avevamo scambio. Tutti i gruppi della città, suonava uno, gli altri bene o male, c'erano sempre le antipatie, le simpatie, cioè questo è normale, però se c'era il gruppo gli amici lo andavano a vedere che suonavano, no? Certo. Adesso invece vedo il gruppo che suona, che lui pretende che la gente lo vada a vedere, e invece non ci va nessuno, quelli dei ragazzini, la gente sta fuori, però loro stessi poi escono quando suona l'altro, quindi se fossero tutti un po' più uniti. No? Con più voglia di collaborare, cioè, quindi se il disinteresse parte da chi suona, vuol dire che abbiamo capito poco. Fa un po' parte poco, anche ecco. Del discorso che facevamo prima della fatica, cioè una volta andare ai concerti, cioè i concerti quasi era già ti etichettava in un certo ambiente, in una certa scena. Sì, adesso. Adesso insomma un po' tutti vedono un po' di tutto. Purtroppo po', la gente, cioè, il discorso è che bisogna suonare dal vivo per essere veramente musicisti. Se non suoni dal vivo è facile o difficile, dipende dal punto di vista, fare un disco che si può fare con gli arnesi che ci sono adesso. Imbroglia palesemente. Quando suoni dal vivo non puoi imbrogliare, casca il palco, c'è poco da fare. Bene, sentiamo un altro pezzo da IFFD. Che traccia hai scelto, Mono, ti ricordi? Io no, ne ho scelte alcune. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi, è importante. Innanzitutto lo stiamo passando qui nella nostra emittente, perché a me è Alberto Prisco, che salutiamo, il nostro direttore artistico, che stasera vi ha voluto qua, e ci piace. Ciao Alberto. Grazie. Ci piace perché è anche un omaggio ai 20 anni di carriera. Esatto, e insomma racconta un po' le nostre sensazioni, anche se in pochissime parole, come è fatto il punk, perché una canzone punk dura 5 minuti, ha perso tutto, il punk certo. Deve aprirsi, anzi questa è già 3 minuti, è già lunga, però insomma vuole raccontare un po' le nostre sensazioni e emozioni quando abbiamo iniziato e quello che invece proviamo oggi, quindi c'è un tributo al nostro pubblico. Al pubblico. Grazie al pubblico, a voi, sentito la gente. Certo, lo sentiamo allora. Fin dai tempi della scuola, la passione per il punk rock. Mentre gli altri studiavano sui libri, noi coi dischi dei Ramos. Si parlava di politica, lottavamo per il nostro squat. Sempre strada al bar in osteria, era nostra la città. Grazie a voi, grazie, grazie a tutti quanti voi. 20 anni di lotta, di concerti, birra e musica, oh yeah. Tra di noi, ragazzi di strada come voi, cambia il mondo ma noi no, che non ci cambieranno mai. Poco più che ragazzini, decidemmo di far musica, oh eh. Nessuno di noi sapeva suonare, ma con tanta voglia di gridare. All'inizio dei 90 ci dicevano che punk non va più, ma la musica ci viene dal cuore, batte al tempo di un pezzo dei Crash. Grazie a voi, grazie, grazie a tutti quanti voi. 20 anni di lotta, di concerti, birra e musica, oh yeah. Tra di noi, ragazzi di strada come voi, cambia il mondo ma noi no, che non ci cambieranno mai. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:19 minuti primi, sempre con voi Gilles e Maurizio qui a Blu Radio Veneto. Gli FFD e Carne Murta. E io, permettimi Maurizio, che mi inserisco un attimino, perché volevo un attimo chiedere prima a Mono e poi a Garrincia il significato sia di FFD e anche il tuo titolo Antifa Riot. Riot. E anche che significato ha il nome del tuo gruppo, Garrincia? Allora, FFD, vabbè, allora, ci teniamo già da tanti anni, abbiamo lasciato soltanto la sigla, quindi per noi è FFD. Quando avevamo iniziato nel 92 era l'acronimo, si dice, l'acronimo di Four, sì, Flying Dicks, che sarebbe quattro cazzi volanti, però insomma diciamo che avevamo, qualcuno un po' ci accusava di maschilismo, di sessismo, che non sono assolutamente nostri valori per niente, e quindi insomma abbiamo detto, se deve dar fastidio a qualcuno lo togliamo e lasciamo soltanto la sigla. Abbiamo lasciato solo FFD. Esatto, abbiamo lasciato solo FFD, okay. Eravamo molto giovani, stupidini, insomma. E quindi Antifa Riot invece, insomma, il titolo Antifa è un termine internazionale per dire antifascismo, quindi vuol dire insomma rivolta antifascista, quindi le nostre connotazioni politiche, il nostro interesse contro il nazifascismo, insomma siamo sempre in prima linea, perché sono stati anni, secondo me, assolutamente bui, anni da dimenticare. Purtroppo invece oggi, come oggi, ci sono ancora in giro dei nostalgici che noi cerchiamo di, insomma, nel nostro piccolo, con la nostra musica, di combattere o comunque dare contro di dare un'informazione corretta, ecco, rispetto a quel periodo storico veramente triste della nostra vecchia Europa, no? Quindi insomma vuol dire sommossa antifascista, diciamo. Ho capito. E tu? Sì, nel nostro caso anche quello ha un'origine un po' particolare, comunque diciamo che è un termine sardo. Non proprio piacevole, perché carne murta, un po' più vicino al microfono, sì, carne murta suona un po' come una minaccia, comunque noi l'abbiamo usato in modo un po' scherzoso, è diciamo una minaccia mafiosa tra virgolette, però per noi c'è anche il significato, come dire, alla fine siamo un po' tutti carne murta, cioè abbiamo tutti da buttare via tutta l'energia della nostra vita, tutto quello che abbiamo, insomma. Ho capito. Come dicevamo prima. E ho letto, chiaramente Mono, avete fatto nella vostra carriera più di 1000 concerti. Esatto. 1000 concerti, anche, e avete anche di più, insomma. Avete fatto in 20 anni, in 20 anni. Da spalla anche a una delle band punk internazionali di grande valore, di grande, esatto, di grande, sì, qualche ricordo, dai Mono. Bah, insomma, i concerti sono tutti belli e tutti brutti, nel senso che ogni volta c'è sempre qualcosa di positivo, di negativo. Noi cerchiamo di dare sempre. Esatto, di dare sempre. Ci è capitato di dividere il palco con band di livello internazionale, soprattutto ho avuto la fortuna di, sì, poter conoscere i miei miti, no, di quando ero ragazzino, e quindi di poterli conoscere e dividere anche il palco con loro, insomma più o meno tutte le band storiche punk degli anni 70-80, con quasi tutti, a parte i Sex Pistols non abbiamo mai suonato con loro, però, e i Clash perché non hanno più suonato, esatto. per il resto, insomma, tutti gli altri gruppi abbiamo avuto modo di suonare insieme, e nei nostri 1000 concerti abbiamo suonato dal centro sociale più piccolo e più malfamato fino ai più grandi festival. I grandi club anche, quindi abbiamo suonato più volte, senza fare, insomma, non voglio fare nomi, però quelli che sono i big club dove vanno i gruppi tosti, e abbiamo avuto modo di suonare lì, di suonare anche nei grandi festival estivi, e però noi ci troviamo sempre bene, insomma. Ma non c'è emozione quando suonate davanti a tante persone, Mono, oppure no? Ma io sinceramente, dimmi, che cosa senti, che sensazione ti dà? Ma quando ci sono tante persone si è sempre anche un po' presi, un po' stressati, e devi andare a fare gli orari, prepara, non prepara, quindi non hai tanto tempo di pensare, di realizzare veramente a quanta gente c'hai lì davanti, no? Te ne accorgi forse di più quando rivedi la cassettina, quando rivedi la registrazione, che lì mi gaso molto di più, guarda quanta gente c'era, guarda così. Invece se c'è poca gente te ne accorgi, allora è lì che magari me ne accorgo quando è pieno, che siano 300, 500 o 5000, non fa differenza. Non fatto più di 5000, non c'è, con gli FFD non c'è mai capitato. Però, insomma, è una bella cifra. È già una bella cifra. Esatto. Però non è che te ne accorgi più di tanto. Io cerco molto di più invece le facce delle prime persone che cantano insieme a me, quelli proprio che alzano le mani, il coro, quello lì è sempre bello, insomma, però non sono uno che è molto emotivo, che dico, ah, che emozione. Anzi, quanto più gente c'è, più il concerto è grosso, più ci sono menate. Quindi, quindi adesso tocca a te, devi portare il documento lì dell'Empals, devi fare questo, quello lì. È la burocrazia. E una volta invece non a noi piace di più il concerto, la dimensione più piccola dove parli con le persone. Se uno ti dice qualcosa, capisci cosa ti dice, no? Sia nel bello che nel brutto. A me piace di più quella dimensione lì. Poi ovvio che suonare nei grandi festival è bello anche quello lì, perché ti senti un po' arrivato, no? Certo. Anche se alla fine è arrivato non lo sei mai, però ti senti figo, diciamo, ecco. Sì. Però te ne accorgi, io personalmente, dopo. Sarà che mi bevo anche qualche birrettina prima di salire sul palco, quello. Quindi insomma vado su un po'. Non bevete, ragazzi, mi raccomando. No, assolutamente no, assolutamente no. Mi raccomando, dice uno. Però insomma, diciamo che te ne rendi di più conto dopo, quando c'era tanta gente. Invece quando ce n'è un po' meno e l'ho tirata tutta sotto il palco, lì alla fine sono proprio soddisfatto. Dico, che bello, sono stato bravo, ho spaccato. Adesso suoniamo che cosa, Mono? Suoniamo? Certo. Dai, visto che c'è la chitarra, solo lui, oserei, visto che sei qua per promuovere il nuovo disco degli FFD e della Carne Murta, facciamo una canzone non nostra, dai. Facciamo quella? No, la Billy Bragg. Ah, Billy Bragg, facciamo un pezzo da Billy Bragg, dai. Vai. Up in the morning and out of school, mother says there'll be no work next year. Qualification was a golden rule, now they're just pieces of paper. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forward doesn't mean I'm going backward. Get the part, you get the job. Last year's trousers and your old school shoes. To this son, it's the buyer's market. They can afford to pick and choose. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because I dress like this doesn't mean I'm a communist. Factories are closing and the army is full. I don't know what I'm going to do, but I come to see in the land of the free, there's only a future for the chosen few. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forward doesn't mean I'm going backward. You're on top of the scrap heap. At 16, you were top of your class. So they taught you at school, said to be a good worker. System is fault, don't for yourself. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forward doesn't mean I'm going backwards. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Avevo un'altra domanda per Mono. Sì. Vai, vai, siediti. Ma poi puoi stare anche in piedi. Se vuoi, puoi parlare sul. Beh, adesso parla su quel piccolino. Dai. Vai. Nel tuo libricino interno vedo che c'è una doppia lettura del testo, una versione italiana e una versione inglese. Sì. Come mai hai fatto questa scelta? Ma perché, come si diceva prima, insomma, ci capita spesso e volentieri di suonare all'estero e anche di proporre la nostra musica all'estero, quindi l'inglese è la lingua un po' riconosciuta da tutti, no? Quindi per poter far capire quello che noi diciamo a chi non parla italiano, anche se c'è una canzone anche in spagnolo che abbiamo tradotto in spagnolo. Sì, alla fine. Sì, però insomma l'inglese è la lingua universale ormai che è stata battezzata. Certo. E quindi le ho tradotte per quello, per l'estero soprattutto. Quindi c'è una parte dedicata appunto anche al vostro mercato, un po' verso l'estero. Sì, perché praticamente il disco precedente a questo era uscito per quella distribuzione della Warner, quindi con le edizioni della Sugar, quindi insomma una produzione abbastanza grossa. Avevano voluto i diritti per il mondo, l'universo, lo spazio, e supporti passati, presenti, futuri, quindi tutto, no? Mentre invece, tornando alle nostre vecchie autoproduzioni, negli anni avevamo trovato la nostra etichetta in Italia affezionata che stampava i nostri dischi, poi c'era un'etichetta in Germania che stampava i dischi per il mercato tedesco, sempre si parla di poche migliaia di copie, qualcosa, insomma, però invece di avere una grande etichetta che distribuiva in tutto il mondo, che tanto poi difficilissimo un gruppo italiano che venga stampato e distribuito nel mondo, io avevo la mia etichetta in Italia, una in Germania, ne avevo una in Argentina per qualche titolo, una in Canada, una negli Stati Uniti, una in Polonia che aveva fatto un paio di titoli, soprattutto anche grazie ai Los Fastidios, che loro continuano ancora oggi, sono di Verona, ad andare molto forte, quindi abbiamo fatto un disco insieme ai Los Fastidios. E insomma avevamo sia etichette che stampavano nelle varie nazioni, o comunque anche, che ci distribuivano. E con l'uscita di Antifariot stiamo concludendo alcuni accordi in distribuzione all'estero, c'è già, stiamo cercando anche altre etichette che proprio lo stampino, ecco, direttamente. Ma il ritorno all'autoproduzione era una cosa di libertà oppure no? Cosa dici? Beh, assolutamente, cioè, sì, perché tu avevi il disco precedente era distribuito da una grossa etichetta, c'erano dei paletti, come tu hai parlato. Assolutamente, sì, ci mettevano dei paletti non da poco, sia riguardati l'immagine, sì, certo, riguardati, ma che poi non è che te li imponevano, ti ci facevano credere, cioè ti convincevano, no? No, ma adesso andrai qui, farai questo, quindi ti conviene più usare questo perché poi riuscirai, non è che come magari uno può pensare, ti dicono tu adesso ti vesti così e devi dire questo e fare questo, no, questo non ce l'hanno mai capitato. Però ti ci fanno un po' arrivare per gradi. E che dopo sembra quasi come se lo vuoi tu, no? Invece certo. Poi quando ci siamo un po' resi conto di quello che è poi successo eccetera eccetera, abbiamo detto no, il nostro stile è un altro, quello più diretto, più street, no? Quello certo, più street della gente, più, un po' più di nicchia, un po' più anche politicizzato, ma più che politicizzato interessato, perché noi non abbiamo delle bandiere politiche o dei partiti politici ai quali ci appoggiamo, no, noi abbiamo degli interessi che sono diversi, poi dopo ognuno lo può pensare come vuole all'interno della nostra band, no? A proposito di interessi, avete citato Billy Bragg, che non ha mai avuto piedi sulla lingua, e io sono d'accordo, sono contento che in 15 anni di Rock Wave live, no, 15 anni no, ma 10, è la prima volta in assoluto che uno fa una cover di Billy Bragg, e questo sono molto soddisfatto perché io ero un amante di Billy Bragg. Poi si è un po' perso musicalmente, anche se ha fatto un disco recentissimamente. Sì, però, insomma, però è un po' diverso. A me piacciono più quelli lui, quelli tosti. Poi è stato un po' arrangiato e altre cose un po' cambiate. Un po' più noioso forse. Ha cambiato leggermente stile. Però se lo vai a vedere dal vivo oggi, lui con la sua chitarrina che arriva con la chitarra. Esatto. Stile Joe Strummer, così è sempre forte, lui e basta. Sì. Quando si parla di Billy Bragg si sa come si comporta, esatto, dal vivo. Esatto. C'è poco, brava persona, comunque io lo stimo molto. Bene, sentiamo un pezzo da disco adesso. Sì, tocca a Carne Muerta. Tocca a te. Allora, che okay, questa hai scelto? Però per Coco, che è l'altro video tratto da questo disco, è un pezzo palesemente festaiolo, cioè il testo riprende tutte filastrocche di bambine che il cantante sentiva da bambino, il bufo, lo saluto, ciao, e quindi insomma è lo stile che più ci contraddistingue in generale dal vivo, insomma, rispetto a quello di prima che era un po' più particolare e ricercato, ecco. Bene, ok. Ciao bambino me la cantava la violetta, me la cantava e me la ripeteva. Ai che era una vecchietta, bidibi sconfetta, ai che era una vecchietta e adesso l'anche il po'. Quando ero più grande me la cantava mio fratello, me la cantava e me la ripeteva. E io dicevo cosa? La merda che ti ingoia, in bocca tua riposa col cazzo di Noè. Mio capità, c'è un uomo in mezzo al mar, lasciatelo dov'è! Che a casa il riso c'è, però perché? È una passione, mi domina, però perco, però per poco. Che è una passione, mi domina, però per poco, però perché? In mezzo al mar, lasciatelo dov'è. Che a casa il riso c'è, però perché? È una passione, mi domina, però perco, però per poco. Che è una passione, mi domina, però perco, però per poco. È una passione. È una passione, mi domina, però per poco, però. Tutta colla. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:37 minuti primi, poco più di 20 minuti ancora in compagnia di Blue Radio Veneto. Una domanda per Garrincha. Dimmi pure. Sommariamente, un CD un po' particolare. Se tu dovessi a grandi linee spiegare un po' questo CD per chi non lo conosce, vuole avvicinarsi a questo tipo di musica. Sì, il CD ha un titolo, Dirty Swing, che è un po' il titolo, il nome che volevamo dare anche al genere che propone. Però in realtà, sentendo anche i pezzi che avete sentito, si capisce che si spazia da un genere all'altro. Quindi esatto. Noi abbiamo preso un po' la lezione prima dei Clash, poi della Mano Negra, di band che sono partiti dal rock and roll e dal punk, ma poi hanno messo dentro tutte le influenze che potevano, diciamo, piacergli, dal reggae alla musica latina, senza farsi troppi problemi, insomma. Quindi adesso abbiamo una connotazione un po' più swing, però non abbiamo nessun problema a mescolare la musica balcanica con la ci musica sente, italiana, sì, alla Carosone o cose di questo tipo, certo. Insomma, quindi diciamo che il clima però è sempre abbastanza di festa, soprattutto dal vivo. Quello che ci caratterizza di più è cercare sempre di creare la festa, proprio, una festa popolare. E a livello di testi che raccontano? I testi sono abbastanza ancorati alle sensazioni quotidiane, cioè a quello che viviamo quotidianamente. La maggior parte dei testi raccontano o anche storie d'amore finite male, come un po' tutti i testi blues, rock and roll, diciamo, oppure anche esperienze collettive vissute con tutte le persone che incontriamo, perché anche noi come band giriamo da ormai più di dieci anni e abbiamo girato tutta l'Italia, anche all'estero, noi più nell'est Europa, Ucraina, Romania, quei paesi lì, rispetto agli FFD, diciamo che loro sono dei pionieri, hanno cominciato anche prima di noi. Però insomma raccontano proprio l'esperienza quotidiana la maggior parte dei testi, quindi insomma, come la musica abbraccia varie sonorità, anche i testi abbracciano varie situazioni. Sì, girando anche varie lingue, perché noi cantiamo in francese, qualche canzone in francese, poi la maggior parte sono inglese, italiano e anche qualche canzone in spagnolo, perché nei nostri viaggi abbiamo conosciuto anche persone che parlavano spagnolo, che ci hanno ispirato tante cose insomma. Allora, il disco degli FFD, cari ascoltatori, è una cosa importante, è stato registrato con mix tutto analogico. Esatto. Vero? Esatto. Dobbiamo sottolineare questo. Cosa, dobbiamo dirlo, dobbiamo sottolineare questo qua. Senza nessun giochetto. Esatto, però si dice anche molta gente un po' più vicino al microfono. Molta gente imbroglia, no, con il digitale, taglia, cuci, così, no? Qua è tutto registrato one take, come si usa dire in gergo. Esattamente. Quindi le canzoni sono suonate dall'inizio alla fine, veramente, senza tagli e cuci digitali, insomma, ecco. E devo testimoniare che anche l'Hybrid Twist l'abbiamo suonata così. Sì, si cercava di suonare tutto insieme, qualcosa è stato sovrainciso, però sempre live, diciamo. E tutto il mix è stato fatto in analogico, tra l'altro qua vicino, tra Padova e Venezia, c'è un ottimo studio, anzi forse uno dei migliori che c'è in Italia per mixare. Quindi insomma siamo molto contenti di tutto ciò, c'è anche un ottimo produttore, volevo ringraziare anche Marco Trentacosta, certo, che ha seguito la produzione artistica, la produzione esecutiva dell'etichetta One Step Records, Francesco, che ha creduto in noi. Comunque oggi come oggi non è facile trovare un'etichetta che apre il portafoglio, che investe dei soldi in un gruppo, nonostante che noi siamo un gruppo già abbastanza avviato, però non è che i guadagni siano poi sulle vendite molto importanti, quindi anzi veramente è stato un bel gesto, ecco, ed è anche un'ottima etichetta One Step, perché ci crede, è una delle poche etichette indipendenti italiane che crede in quello che fa e sostiene i propri gruppi. Poi c'è sempre comunque la Cobb Records, che è la nostra vecchia etichetta, che per problemi appunto anche un po' economici, se si può dire, non certo, produce più i gruppi, ma continua a sostenerci, ci organizzano i concerti e ci stanno seguendo tutto il booking, il nostro ufficio stampa, la Rock Pigeon Working Press e United Communication, che sono due uffici stampa che ci stanno dando una mano, insomma. Sono cose che magari hanno i gruppi di alti livelli, noi ce li abbiamo perché sempre... siete un gruppo di alto livello, no, anche ce voi ce li abbiamo sempre però perché abbiamo tanta gente che crede in noi, tanti amici, tante persone che ci vogliono bene, e vent'anni riusciti... di carriera sono siamo mica pochi, riusciti anche insomma a lavorare con gente ad alti livelli, perché però ci sono venuto incontro molto per affetto, per amicizia, certo, economicamente anche, perché sennò un disco punk italiano non riesce a andare su certi banchi, certo, su certi avere un certo giro. Motore, esatto, ecco. Bene, cosa sentiamo Mono adesso? Cosa sentiamo? Cioè, cosa avete deciso di fare? È sempre improvvisato. Improvvisato. Sì, uno dei pezzi che appunto sento coverizzare da tutti i ragazzini quando vado in giro per l'Italia. Dai. Questa è una vecchia canzone che proponiamo alla fine dei nostri concerti, uno scherzo, diciamo, che era stato scritto dedicato all'eroe dei cartoni animati Homer Simpson. Ah, Homer benissimo. Cervello, tanto meno ascolti Marsh, mangi tutto ciò che vedi, Homer Simpson, sei tu Homer Simpson, il mio mito American, oh, oh, oh, Homer Simpson, sei tu Homer Simpson, il mio mito American, oh, oh, oh, Homer Simpson. Thank you. sono partito padrone, il signor boss. Vai a bere tutte le sere giù alla taverna da po', ti ubriachi sempre con palle di pirata. Sei tu Homer Simpson, il mio amico americano. Oh, oh, oh, Homer Simpson. Sei tu Homer Simpson, il mio amico americano. Oh, oh, oh, Homer Simpson. Okay. L'onda del rock. Rock Wave Live. Cari ascoltatori, dopo volta... 35 anni di un'orata carriera radiofonica, ho distrutto anche una canzone di FFD. Ma no, quindi... io le avevamo detto che quando suoniamo il pubblico, che siano 10 o 50, 100, facciamo esatto. Cantare tutti. C'eravate voi, vi abbiamo dovuto far cantare. Mi pare giusto. Non smettevamo però... mica. Grazie ragazzi, perché è stato veramente stupendo vedere Maurizio cantare. Insomma, è tutto dai. In diretta, cari ascoltatori, è tutto sì, in diretta, 23:48, quasi 47:48, sì esattamente. E... grazie Maurizio per essere stato prestato anche insomma in questo... No, ma è stato spontaneo, l'ho visto proprio. È decisamente spontaneo. Il wow è stato perfetto, è vero. Sì. Mamma mia, ragazzi, lasciamo perdere. No, una cosa devo chiederti, Mono, ti ricordi che date hai prossimamente da fare? Allora... dunque, il 1° giugno siamo in quella di Grosseto, che va confermata, però più o meno ci dobbiamo essere. Il 7 giugno siamo a Cantù, l'8 giugno siamo a Forlì, in provincia di Forlì, comunque se andate sul sito trovate tutto. Il 14 giugno siamo nell'Interland milanese, non mi ricordo il paese. Il 15 di giugno siamo a Parma, torniamo nella nostra città insieme alla Scarna e Murta. Quindi, fate insomma, un concerto assieme. Un concerto assieme con tante altre band per un, insomma, un nostro amico. Un evento si chiamava Sta Sempre Bagno per ricordare un nostro amico che insomma, è venuto a mancare qualche anno fa. E poi ci sono altre date che non ricordo. Comunque, insomma, un quindi, po' siamo in zona, però per il momento, non abbiamo, anche se in Veneto veniamo sempre spesso e volentieri. E devo dire che troviamo sempre un pubblico bellissimo. Bene, bene, questo è positivo. Quindi sarà un'estate caliente? Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi ci fermeremo per luglio perché abbiamo appunto qualche personaggio del gruppo che dobbiamo reinserire per problemi che dicevamo prima, e poi si riparte da settembre. Dai, agosto facciamo un po' di vacanza, cioè luglio e agosto si rimette su la nuova formazione e da settembre si riparte. Bene, è una cosa positiva. Tutti strumenti elettrici sul palco, caro Simone? Sì, per noi sì, due chitarre, basso, batteria e via. Che spaccano, senza due chitarre effetti, che spaccano. Senza niente, cioè, c'è un distorsore dell'amplificatore. Ma un pochettino di distorsore, sì, dai. Sì, però quello dell'ampli, senza pedali. Ah, senza, ho capito. Però proprio rotoli, netti, proprio niente, non toccate. Via, crudi, così. Crudi come si usava una volta. Sì, esatto. Bene. Cosa c'è in scaletta, caro Gila, adesso? Cosa In scaletta c'è ancora un brano, sarebbero altri tre, a dire la verità. Comunque abbiamo poco tempo. Poco tempo. Comunque il prossimo degli FFD, abbiamo Lambret Twist. Ah, ok. No, Lambret Twist abbiamo appena ascoltato all'inizio. C'è un altro pezzo dedicato alla Lambretta, che è sulla Lambretta con lei. Volevo far sentire un altro. Lo sentiamo. Anche noi ogni tanto spaziamo, non sono tutte, questo è un po' più... Prendete in contropiede il regista. Chiedo scusa. No, assolutamente. Il mito della Lambretta è... Sì, è una grande passione. Quindi sì. Anzi, a volte... Quante Lambrette c'hai? Sì. Se ne hai una, te. Io ce n'ho solo una, ma ce l'ho tatuata qua. Vedo. Te la porti sempre. Esatto. Mi puoi spiegare un momento... Io sono pronto quando vuoi. Sì, la costruzione sonora di questo pezzo. Questo pezzo, a differenza di altri, quindi è appena un po' diverso dal solito, un po' più ispirato dal soul al beat degli anni 60 italiano, insomma, quindi siamo rimasti sempre lì, insomma, lo stile Lambretta, abbiamo voluto fare anche un omaggio per come poi lo possiamo interpretare noi con gli FFD, quindi siamo sempre gli FFD, però è un nostro omaggio alla musica soul beat italiana degli anni 50-60. Diciamo. Bene, la sentiamo adesso. Parliamo sulla Lambretta con lei. Sulla Lambretta con lei. Ok. Salta su che andiamo via, sullo scooter con lei, soltanto noi, non mi perderei mai, soltanto noi, le sue braccia sui fianchi miei, lei dico stringimi forte dai, ai ai ai, intanto canto sciala la la la la la la, sulla Lambretta con lei, intanto canto sciala la la la la la la, sulla Lambretta con lei, hey, vorrei non finire mai, hey, hey, una ragazza speciale lei, hey, hey, hey, mai la cambierei, 150 speciali sullo scooter con lei, soltanto noi, non mi perderei mai, soltanto noi, le sue braccia sui fianchi miei, le dico stringimi forte dai, ai ai ai, intanto canto sciolala la la la la la la, sulla Lambretta con lei, intanto canto sciolala la la la la la la, sulla Lambretta con lei, intanto canto sciolala la la la la la la, sulla Lambretta con lei, intanto canto sciolala la la la la la la, sulla Lambretta con lei. Intanto canto sciala la la la la la la la, sulla Lambretta con lei, intanto canto sciala la la la la la la, sulla Lambretta con lei, anche se il mondo non ci aspetta, non ho mica fretta, sto bene sulla Lambretta con lei, che importa se in vacanza al mare o vado a lavorare, sto bene sulla Lambretta con lei, notti d'estate, pomeriggi d'agosto, c'ho la sella di posto per andare sulla Lambretta con lei, l'amore viene, l'amore va, Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Come si dice, il punk è veloce. Abbiamo finito. Il punk è veloce. Abbiamo finito, purtroppo. Adesso però ricordiamo una cosa fondamentale. Mono, il titolo del disco. Allora, Antifariot FFD è uscito per l'etichetta One Step Records ed è distribuito da Goodfellas, un distributore importante. Se volete ordinarlo, insomma. Il tuo sito? Il mio sito non me lo ricordo, perché appena è cambiato. Ah, perfetto. Vabbè, se andate su internet, scrivete FFD, la prima si trova cosa immediatamente. Che vi esce, siamo noi. Trovate tutto, sito, MySpace, video, non video, gag, cioè di ci tutto, siamo sempre di noi. Tutto. La distribuzione, quindi Goodfellas, quindi nei negozi anche abbastanza forniti si può trovare. Oppure se andate in dal vostro negoziante di fiducia, lo chiedete, non dovesse averlo, dite guardi, chiedetelo a Goodfellas, cioè è distribuito Goodfellas, lui lo ordina, in due giorni vi arriva. Te, Garincia? Sì, allora, il nostro sito www.carnemurta.com, io me lo ricordo. Ma io perché era ffd.it, ma mi sono dimenticato di fare il rinnovo, mi ha fregato un altro. Sì, infatti non c'è. La tecnologia comunque è fregato sempre. Un altro, mi chiede dei soldi, dico vabbè, ma dai, ma mi sono dimenticato tre giorni, vorrà dei soldi, ci do 100 euro, gli ho detto. No, ha capito. Voglio soldoni. Ha capito tutto. Pensavo da 20 anni, ce l'avevo. È la storia per quella. Sono un po', siamo noi punk che a volte dormiamo, al mattino bisogna svegliarsi. YouTube prima. Si trova qualcosa su YouTube c'è di tutto, sì assolutamente, ci sono tutti i videoclip con gli ufficiali e poi anche i video dal vivo, certo. Ci sono anche dei nostri tra virgolette fans, amici che ci creano dei video, ce li postano, insomma c'è veramente di tutto. Tocca a te, Garincia. Sì, no, comunque dicevo www.carnemurta.com con la K. Prossime date. No, il titolo del disco è Dirty Swing, che è autoprodotto e potete sia comprarlo su internet online oppure potete richiederlo a noi o comprarlo ai concerti. Su internet ci sono tutte le modalità per averlo. Comunque diciamo che anche noi abbiamo scelto l'autoproduzione, anche noi in passato avevamo avuto distributori portati, però abbiamo scelto l'autoproduzione. Perfetto. E le date? Le date a giugno avremo date più che altro in Emilia, nella nostra zona, la più importante forse il 15 giugno, quella con gli FFD alla Sta Sempre Bagna, così. E poi il 3 agosto saremo a Negrar, in una festa nei pressi di Negrar, una festa storica che ormai ha 30 anni, molto bella, e da lì partiremo e faremo un tour al sud Italia. Quindi toccheremo Bari, la Puglia, Gallipoli. Ah, bene. Dopo sul nostro sito trovate tutte le informazioni necessarie. Ecco, per gli amanti della curiosità, Carne Murta ha ben 2700, più di 2700 mi piace in Facebook. Sì, esatto. Sì, non sì, sono pochi. Siamo seguiti anche noi, per fortuna. Bene, abbiamo finito, cari Mono e cari Garincia. Finiamo però, come sempre, come facciamo ottimamente, mi pare giusto, suonando dal vivo. Ringraziamo Gil in regia. Grazie a voi ragazzi. Domani ci sarà Agostino con una cantautrice romana, Francesca Romana Fabris si chiama, dalle ore 21. Con cosa terminiamo, ragazzi, stasera? Stanotte facciamo, ormai. Grazie a voi che il pezzo che hai lanciato, sì. Lo accenniamo. Facciamo prima. Accenniamo grazie a voi e poi facciamo un omaggio a Bob Marley. Anche a Joe Strummer. E a Joe Strummer. Anche a Johnny Cash. Un po' di tutto. Insomma. Prima grazie a voi, allora. Sì, facciamo un accenno grazie a voi e poi il pezzo di Bob Marley. Ai tempi della scuola, la passione per il punk rock, mentre gli altri studiavano sui libri, noi coi dischi dei Ramos. Parlava di politica, lottavamo per il nostro suono, per questa d'andare in osteria, era tutta la città. Grazie a voi, grazie a tutti quanti voi, vent'anni di lotta, di concerti, birra e musica, oe. Tra di noi, ragazzi di strada come voi, cambia il mondo male, no, che non ci cambieranno mai. Poco più che ragazzini, decidemmo di far musica, oi! Nessuno di noi sapeva suonare, ma con tanta voglia di gridare. All'inizio dei 90 ci dicevano che punk non va più, ma la musica ci viene dal cuore, batte al tempo di testo del Crash. Grazie a voi, grazie a tutti quanti voi, vent'anni di lotta, di concerti, birra e musica, oh, tra di noi, ragazzi di strada come voi, cambia il mondo ma noi no, che non ci cambieranno mai. After they took I from the bottomless pit, how long shall they kill our prophets? Why we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So I'm too happy to sing these songs of freedom. Emancipate yourself from mental slavery. No matter ourselves and free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the tide. How long shall they kill our prophet? Why we stand aside and look? Some say it's just part of it. Sing these songs of freedom, cause all I ever had, redemption song. Hey! Oh, pirates, yes, they're rabbi. So die to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets? Why we stand aside and look? Some say it's just part of it. We got to fulfill the book. So what you have to say? Redemption song.